Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e bentornati a Mr. Kilowatt. Venerdì abbiamo cercato di capire come mai i buoni e vecchi pannelli solari per l'acqua calda non hanno avuto negli anni la fortuna che ci si attenderebbe, soprattutto in un paese come l'Italia, che è particolarmente adatto a questa applicazione. Ebbene, la sensazione è che questa arretratezza sia riconducibile in ultima analisi a dei colli di bottiglia più che altro di tipo culturale, a una generale tendenza, insomma, a sottovalutare questa soluzione, che pure è una delle più mature tecnologicamente, richiede un investimento molto limitato e si ripaga abbastanza rapidamente grazie agli incentivi. Si parla di 4 o 5 anni. Oggi allora continuiamo la nostra piccola campagna a favore del solare termico, entrando un po' più nel dettaglio delle varie tipologie di pannello ed impianto disponibili sul mercato. Ci aiuta in questo Giacobbe Braccio, responsabile del laboratorio prove collettori solari dell'Enea di Trisaia. L'Enea è l'Agenzia Nazionale per l'Energia e l'Ambiente. Buonasera Braccio. Buonasera. Dunque, io direi che possiamo iniziare proprio dalla parte più visibile dell'impianto, ovvero i pannelli. Le chiedo quindi quali sono le principali tipologie e come funziona. Sì, diciamo che i pannelli, in realtà si chiamano collettori solari, sono l'elemento, diciamo, principale di un impianto solare. Servono essenzialmente a catturare l'energia termica e a trasferirla a un fluido vettore che poi l'accumula, diciamo, per l'utenza. D'accordo. Essenzialmente ci sono tre tipologie di collettori solari. Quelli più semplici sono dei collettori cosiddetti scoperti, quelli più utilizzati sono quelli in plastica e si prestano molto bene per applicazioni estive, ad esempio acqua calda per piscine o delle esigenze di acqua calda a bassa temperatura, soprattutto in estate. Poi ci sono invece i collettori più classici, che sono i collettori solari piani, dove appunto c'è una piastra piana al di sotto del vetro che hanno, diciamo, delle buone caratteristiche, soprattutto negli ultimi tempi si sono sviluppati fortemente sulle caratteristiche dell'assorbitore. E poi ci sono i cosiddetti collettori evacuati o sottovuoto, dove per ridurre le dispersioni termiche verso l'esterno c'è un'opportuna camera sottovuoto che annulla le dispersioni termiche essenzialmente per conduzione e per convezione. Questi qui si presentano come delle file di tubi, e di tubi in vetro lunghi un paio di metri al limite. Sì, più o meno, diciamo, a vedersi. La necessità di fare il vuoto comporta, diciamo, l'esigenza di avere un collettore tubolare, cioè è molto più facile tenere un ambiente in pressione se è sferico, diventa molto difficile se è un collettore piano. Certo, e quindi si hanno appunto queste file di tubi. Ecco, abbiamo detto che c'è un fluido vettore, cioè un fluido che si scalda e alla fine in qualche modo dovrà trasferire calore all'acqua calda, che è quella che ci interessa, esca poi dai rubinetti quando li apriamo. Ecco, ci sono varie tipologie di impianto, vari modi in cui può avvenire questo interfacciamento. Sì. Diciamo, in pratica gli impianti si suddividono in due tipologie, i cosiddetti impianti a circolazione forzata e gli impianti a circolazione naturale. Allora, devo dire che fino a qualche anno fa gli impianti a circolazione naturale coprivano quasi l'80-90% delle utenze familiari. Diciamo, il boom di questa tipologia di impianti è scaturita proprio dalla semplicità dell'impianto, nel senso che è come se uno avesse un serbatoio d'acqua calda sul tetto, quindi non ha bisogno di pompa, non ha bisogno di niente e direttamente si produce acqua calda all'esterno. Viceversa, gli impianti a circolazione forzata, che in genere sono per impianti, diciamo, di dimensioni più grandi, quindi se uno ad esempio deve fare degli impianti combinati acqua calda, riscaldamento ambiente, oppure grosse utenze, richiedono un sistema di pompaggio per il cosiddetto circuito primario, cioè il fluido che attraversa i collettori, e un altro chiaramente sistema di circolazione per l'utenza termica. Ecco, e qui in questi casi si ha tipicamente una specie di grosso boiler che si trova lì dove c'è la caldaia e lì viene accumulata acqua calda, una roba un po' più complicata della prima di cui parlavamo, che invece spesso ha quei serbatoi che si trovano appunto sul tetto assieme al pannello. Eh sì, il fatto che di avere un impianto di circolazione naturale obbliga l'accumulo, che è quel pentolone che diceva lei, ad essere al di sopra del collettore solare, perché per effetto proprio di convezione naturale l'acqua calda tende ad andare verso l'alto, cioè, per cui pentole. È obbligato a stare in alto. Viceversa, nel caso di impianti a circolazione forzata non c'è l'obbligo, diciamo, della collocazione dell'accumulo. L'accumulo può stare dove vuole, perché chiaramente è il sistema di pompaggio che funge da motore del circolo del fluido. Ecco, sul versante dei costi, quale può essere il prezzo di riferimento? Guardate, il risparmio, diciamo, al metro quadro di collettore solare annuo mediamente si attesta intorno ai 60 euro all'anno nel caso del gas, che diventano 120 euro nel caso di sostituzione di scaldabagni elettrici. Per cui un prezzo da non medio, diciamo, da tenere di riferimento è 1000 euro al metro quadro, tutto comprensivo, incluso di montaggio e IVA. Chiave in mano. Quello è un prezzo da non superare. Va bene, grazie, abbraccio. Salve. Insomma, avete capito che se fate uso di uno scaldabagno elettrico, sostituirlo con dei pannelli solari può essere, anzi è assolutamente conveniente. Questo è tutto, domani Mr. Kilowatt torna, parleremo di delocalizzazione energetica, ci chiederemo cioè se è realistico pensare che le attività produttive inizino a un certo punto a inseguire l'energia presente nell'ambiente, così come hanno inseguito e inseguono tuttora il costo del lavoro. A domani.